Buonasera. Buonasera. Buonasera, fratello. Buonasera, sorella. Allora, diamo il manuale d'uso della serata. Sì. Intanto annunciamo fin da adesso che da domani cambiamo l'annuncio, quello che viene dato via stereofonia all'inizio, che gela completamente il pubblico. Da domani lo faccio io, va bene? E dirò, se volete tenere i telefonini accesi, teneteli. Poi sono cazzi vostri. Allora, signore, intanto presento le persone presenti sul palco. Sì. Il fratello musicista, fratello Emanuele, detto Fracasso, grazie. Grazie, troppo buoni. Io sono Fra Paolino, detto Frainteso, e quello è Goran Akhmedali. Goran. Simbolo dello spettacolo del povero Cristo contemporaneo del clandestino. Allora, diamo l'inizio alla serata. Intanto do un annuncio. Noi siamo arrivati qui a Milano subito dopo che è andato via il Papa. C'è stato un problema, come sapete, hanno lanciato molti bambini sulla Papmobile. Il Papa non è riuscito a rilanciarli tutti indietro, quindi ce ne sono 15 che aspettano i genitori dietro in quinto. Detto questo, signori, mistero buffo pop versione 2.0. È sempre rifatto ai Vangeli apocrifi, alle Bibbie dei poveri. Parla del Gesù della strada. Il sottotesto di tutto lo spettacolo è se ritornasse oggi. Ma chi è il Gesù della strada? Il Gesù della strada è un Gesù che frequentava anche gente di malaffare, gabellieri, prostitute, ladri onesti. Chi sono i ladri onesti? I ladri onesti sono quelli che quando li arresti si fanno arrestare. Tu gli dici, lei è in arresto, lui dice, è giusto. È giusto. Si è fatta la volontà. Si è fatta la volontà dello Stato. Del magistrato. Il ladro disonesto chi è? È quello che quando dici, lei è in arresto, dice, guardi, non è il momento. C'è un legittimo impedimento in questo frangente e non può eseguire la sua cosa. Allora, attenzione, il Gesù della strada era un Gesù, a volte in alcuni particolari bibbie si dice che frequentasse anche, gli piaceva mangiare, bere, frequentare donne, ma non in senso biblico. Però conosceva le quattro regole fondamentali che adesso qui vi porgerò in questa ouverture sulla la durata del matrimonio. Allora, signori, per un sano e duraturo rapporto matrimoniale, ve lo dico da frate, anche se il costume, francamente, siccome ci sono stati tagli alla cultura, noi abbiamo dovuto tagliare la sarta e non c'è nessuno che mi ha tagliato il vestito, quindi più che un frate sembro cucciolo dei sette nani, ma comunque, no, ma, comunque va bene lo stesso. Sempre pure fare quell'altro. Fare di mezzo. Posso fare anche lo Jedi di Guerre Stellari. Bravo, volendo. Bravo. Quello. Perfetto, va bene. Allora, le quattro regole per un sano e duraturo matrimonio. Allora, prima regola. Una persona che vi ami così come siete. Senti che gelo che si è creato. Si guardano l'un l'altro. Seconda regola. Una persona che vi stimoli sessualmente a tutte le ore del giorno. È importante. Lo so, signora, è un lavoro duro, ma si può fare. Terzo. Una persona che vi stimoli anche intellettualmente. E quarta, ultima ed essenziale condizione, che queste tre persone non si incontrino mai. Eccolo qui. Allora io mi pento fin da ora di aver usato questo costume, mi sembra una mucca sigillata nel Domopac, sto sudando come una bestia, va quindi bene, io fra un po' me lo tolgo, mi dispiace per la costumista, ma me lo tolgo. Allora, parliamo su di misteri buffi, pop o meno, erano rappresentazioni che venivano allestite, e questo è il senso filologico del costume, addirittura nelle chiese da frati spiritosi e comici saltimbanchi come noi siamo. In questo modo il clero dava la possibilità per un giorno all'anno al popolo di sfogarsi. Poi per il resto dell'anno si sfogava il clero, ma questo è un altro problema. Ora, attenzione, seguitemi, erano racconti popolari, dove, come vedete stasera, si alternavano, nella versione pop ancora di più, i momenti comici con quelli drammatici. Allora, noi come attori drammatici, nei riguardi delle alte gerarchie della Chiesa, non abbiamo mai avuto problemi. Come comici, già abbiamo problema in questa epoca, in questa società, dove anche qui, voglio dire, a Milano il sindaco, carissimo Pisapia, dicendo al Papa che anche lui seguiva il commissario Rex. Ecco, Quasi parlare di un pastore tedesco a un pastore tedesco non è il massimo della, del neorealismo, però ha voluto fare questa buttata, come si dice in emiliano, certo, l'ha fatta. Allora, invece, nei momenti comici, con le altre gerarchie della Chiesa abbiamo avuto sempre dei problemi. Però io penso adesso che con un Papa rivoluzionario come quello che abbiamo, cosa vuoi che ci faccia? Che ci sgrida? Un rimprovero. Ci manda Padre Giorgio a sgridarci. Cosa vuoi che ci faccia? Anche se, voglio dire, io non giudico le persone, figuriamoci i papi, però a me sembra un po' rigido. Ecco, parlando del Gesù della strada, lì siamo molto lontani in tutto quel settore. Un po' rigido. Io sono un po' rigido, ma anche perché lo giudico da attore. Prima o poi cado dal palco, sono sicuro. Non so se vi ricordate, c'è ancora su YouTube, quella volta che il povero Papa è caduto perché la ragazza strana, scavalcando la transenna, ha tentato di... Ecco, lui non è caduto come tutti gli esseri umani normali. È per forza, è Papa quello. È il Papa, cade da Papa, hai ragione, anche tu, un fracasso. Ma il discorso è un altro. Lui è un essere umano normale, no? Quando cade, non si preoccupa del principio estetico. In che senso? Si scompone. È obbligato a scomporre. Allora, guarda, adesso, con questo costume non si vedono i contorni del mio corpicino, ma... No, vabbè. Uno si inarca prima, poi, guardami bene, mette le mani in avanti, adesso questo non riesce a uscire dalla manica, ma c'è, per, non per scusarsi col suolo, ma per attutire, mi guardi? Sì, ti guardo. La caduta. Guardi. Mentre cade, con la cervicale, guardatemi tutti. Guardiamolo tutti, sì. E sono qui per questo, però comunque... con la cervicale lotta fino all'ultimo contro la forza di gravità, mi vedi? Sì, vedo, sì, sì. E mentre le gambe negano l'evidenza della caduta, i denti la confermano. Bravo, bravo. È così che cade una persona. È così che si cade proprio. Così. Lui no, lui è andato giù dritto, così. Ho detto, ma come cadono i papi? È un uomo tutto da un pezzo. Sarà quello che non ce la faccio più. Me lo tolgo un po' alla volta. Sarà collegato wifi con l'alto dei cieli. E che gli hanno detto l'alto dei cieli? Vai giù di faccia, vai giù di faccia, non lo so. Ma sai perché invece è caduto così? Perché? Ha troppa roba addosso! È troppo caldo. Troppo russo! Troppa... stile formigoni, troppa roba! Troppi frontoli. Troppi frontoli. Troppi addosso. E che cosa c'è? Che non ce la faccio più, sto sudando. Scusate, esci dal mio corpo. Non faccio più. Bravo. Tu invece resta vestito così. Sì, io sto benissimo. Ora, signore, no, ha troppa roba addosso e c'ha la coda del Mellino di 3,5 metri. E c'ha gli Swarovski, gli anelli, i tatuaggi di Murano, le scarpe di Prada. Allora, signori, il Vaticano ha l'appalto delle scarpe di Prada. E tu che pensavi invece? Io pensavo Dolce Gabbana, non ero... Anche perché le scarpe di Prada sono antiscivolo per le barche. Cazzo, poi vai giù, dritto. Ah, perché invece con Dolce Gabbana poi vai liscio e perdi l'equilibrio, pattini, vai liscio, e poi c'è la mitria, no, la tiara, il cappellone, la tiara, scusa, quel cappello non è facile da portare, la tiara, quello è un cappello pericoloso, quello ti tira giù, quello ti tira giù, ti bilancia, questo. Pensate che una delle prove più ardue per diventare papi, durante quando c'è il congresso per eleggere il papa, si chiudono dentro la Cappella Sistina, mettono la passerella dell'Emporio Armani. I candidati bookmakers, dai bookmakers papi, sfilano con la tiara, arrivano i cardinali da tutto il mondo con le palette e con i numeri, e alla fine c'è Mara Maionchi che dà un giudizio tecnico sul carisma, carisma, con Morgan che suona l'organo a carne, tutta la speciale. E poi ha anche l'altro, c'è il bastone. Sì, sì, il bastone con la spirale. Quello il bastone con la spirale, che non è un bastone con un anticoncezionale, è un bastone... Con la girella. Con la girella. Lì è stato sfortunato perché è caduto a Roma. Se cadeva a Milano, in certi punti ci sono ancora i fili del filo, busco la corrente elettrica. Perdi l'equilibrio, ti agganci con la girella. San Babila, Sant'Agostino, Sant'Ambrogio, arrivi in deposito sospeso di vini. In deposito no? A San Giovanni. Troppa roba adesso, troppa. Tu dici, ridi di gente anziana. No, non rido di gente anziana. Io, la cosa che mi ha fatto più ridere, mi ha fatto più dispiacere, e da lì si capiscono le trame del Vaticano, è come si sono comparati i suoi amici quando è caduto. I colleghi. Compagni. Compagni. I cardinali, quelli. Allora, abbiamo tutti, quando cade qualcuno, un'opzione umana. Tipo? ridere. Umana ridere. Volendo, però non è bello il mondovisione, cade il Papa, il Cardinale Bertone, oddio, è caduto il Papa! Caduto il Papa, se ne è rialzo un altro, non è quello il problema. Ma nessuno che ha fatto un gesto, tipo, non so, è la Madonna, per prenderlo. Ma la Madonna non poteva dire... Ma no, per aiutare, per invocare la Madonnina, aiutami, sono anziano, aiutami. No, poteva dire, oh, per Bacco, prendi il Papa, no, che Bacco, è un'imprecazione che non può fare un cardinale. Bacco è un dio pagano, Bacco, tabacco, venere, portano l'uomo dritto alla cenere, dai. Sì. Allora, per Diana... Diana è un'altra dia pagana. Pure Diana è pagana. Diana, la cacciatrice nuda che fuma scalza nella foresta. Fuma. Fuma. Diana, Diana. Per dindirindina. Per dindirindina. È una bella impregnazione per un cardinale. Per dindirindina. È lungo però, rischia che proprio si rialza per dindi. No, no, no. Se va. Ostia. Ostia. Se non è da cardinale, ostia, scusa. A Venezia veniva giù il teatro. Emanuele dell'Ascia, quando improvviso non scherza. Certo. Mario, alzami la voce qui da me, non sì, allora, da me. È così. Tu dici, prendi in giro della gente anziana. No, no. Io ho fatto dei calcoli trigonometrici in casa. In casa. Allora, guardami. Io sono il Papa. Sei un bel papino. Grazie. Ho lo strascico di Ermellino di 8 metri. Finisce qui più o meno, va bene? Ok. 8 metri. 8 metri. Adesso sono il primo cardinale anziano della scorta. Con la coda dell'occhio della cataratta, vedo che il Papa si sta obliquando. Io qui, non qui. Chiedo di fare un gesto da rugbista e saltare e placcarlo. Placcare il Papa. Finisce lì la coda, basta che fai così. E il Papa resta sospeso di vini un'altra volta, no? Che ci voleva, niente. Ma che si bastava apre. Un riflesso. Che si apre una risata. La risata è un dono di Dio, una grazia del cielo, rende le labbra turgide, lo sguardo intelligente, allenta le tensioni, che cambia i punti di vista. Anche loro che hanno avuto momenti storici di immenso umorismo. Quando è che hanno avuto questi momenti di umorismo? L'Inquisizione. È stato uno dei momenti di umor nero più alti della storia del comico. Ancora adesso, non è una mia battuta, come le scarpe di Prada, potete andare a vedere negli archivi del Vaticano, Giordano Bruno. Frate eretico, causa decesso, perito in un incendio? E cosa c'erano a Roma durante l'Inquisizione? I falò per strada? Gli eretici passavano... Ma che bel falò, dentro! Giusto o no? È giusto, è giusto. A proposito, ti volevo... Sì, dimmi. Volevo prendermi una curiosità. Sì. Ma tu, dove vai? Sì, te lo bevo un attimo. Sì. Sì. Ma tu sei credente, tu? Sì, sono credente, a modo mio. Allora, a modo sono un comico, ho i miei dubbi su tutto. Vabbè, come il dico. Comico è portato a dubitare. Per dire, io su Caino non prendo posizione. Come mai? Secondo me le indagini sono ancora in corso. C'erano pochi testimoni, pochissimi. Non è un processo breve. E poi è stato comunque il primo delitto della storia. Il primo omicidio. Certo. Cioè, come faceva a sapere che la pietra era più dura della testa del fratello? Grazie a lui che adesso sappiamo che se dai una pietra in testa, sì, ma dovremmo ringraziarlo. Sperimentazione si chiama questo. Poi altri dubbi mi attanagliano da quando facevo il catechismo. Ti attanagliano? Cioè vorrei che ci attanagliassero assieme. Io... Sì, per dire, io mi chiedo ancora adesso, ma perché San Paolo ha scritto tutte quelle lettere ai Corinzi? Ma soprattutto, perché i Corinzi non gli ha mai risposto? Scusami, io penso che per i Corinzi l'incubo era il postino. L'incubo dei Corinzi era il postino, c'è posto per voi. Chi lo manda? Paolo, ma che cazzo è? Vogliamo andare avanti? Allora, scusa, Abramo e Isacco è una storia quella lì. Quella è la storia. Dai, ho sentito una voce che mi ha detto, se ami me, sacrifica tuo figlio. La voce, sentito. Ho sentito una voce. Dimmi cosa hai preso prima di sentire la voce. E poi com'è andato dal figlio? Sono andato tipo... Ciao, ciao. Ciao, Isacco. Papà, sei strano? No. Il mattino allora in bocca, il mattino allora in bocca. Papà, ma hai sentito delle voci? No! Vieni che andiamo a fare il sacrificio sulla gallinetta. Ma e dov'è l'agnello? Dov'è l'agnello? Lo prendiamo per strada, non ti preoccupare, all'autogrill, qualcosa. Papà, ho paura. Hai paura, tesoro. Figurati io che devo tornare da solo. Allora, poi è lì che fa il sacrificio, si squarciano le nuvole, appare il Signore, scherzi a parte. Ma ti sembra? E poi, siccome, attenzione, ma ognuna di queste storie ha un valore, un monito per noi oggi. Allora, parliamo di Sodoma e Gomorra. Parliamo. Lì si parla di festini. Che festini? E che festini? Allora, io mi sono fatto una mezza idea di che festini facessero i sodomiti. A Sodoma. I gomorrosi, non lo so. Poi qui si parla di sodomita innervosito. Il sodomita innervosito è uno che gira per strada tutto... Dov'è? Non chiedergli se ha perso qualcosa perché la trova. Allora... Fate. Cosa manda giù il signore per mettere ordine? L'esercito? La guardia civile? Chuck Norris? No! Manda gli angeli. Gli angeli, notoriamente febici, alti, biondi, con le mani curate. Manda gli angeli perché non hanno sesso gli angeli. Prova a dirlo, sodomita innervosito! E poi cosa fa il signore? Se la prende con tutti, anche con quelli innocenti, con la moglie di Lot, la trasforma in una statua di sale, solo perché si volta indietro a guardare il passato, un gesto umanissimo. E poi cosa fa? Mette a ferro a fuoco una città con dentro innocenti, vecchi e bambini. Allora, che significato ha questa conclusione per noi oggi qui in Italia? Che se il signore viene a sapere di qualcuno che ha fatto dei festini, ci andiamo di mezzo anche noi che non c'entriamo un cazzo? E che c'entriamo noi? Che c'entriamo noi? Ma che colpa abbiamo noi? Ma che colpa abbiamo noi? Però magari a te che sei VIP qualche volta ti hanno invitato pure. No. Allora io sono andato a un orgio una sola volta nella mia vita. E sono scivolato all'ingresso, quindi non conta. Non conta. No, conta che, nonostante tutto la risata, ripeto, un giorno di Dio bisogna stare allegri. Quindi adesso... Noi abbiamo fatto penitenza in questo Vertù, con questi sai. Io e il maestro dell'Aquila abbiamo, ci confessiamo pubblicamente, dissipato buona parte della nostra vita e del nostro talento. Anche il talento è un'altra storia importante dei racconti biblici. Abbiamo fondato una corrente artistica nuova, ci siamo messi di impegno, adesso siamo più rigorosi, vogliamo diventare due ancien prodigi. Vogliamo scoprire il nostro genio tardivo. Tardivissimo. La corrente artistica che abbiamo fondato è gli intenzionalisti, che è una corrente particolare, per cui se arriva un critico e dice una cagata, noi diciamo sì. Sì. Però guarda l'intenzione dietro. Che si fa presto a dire cagata. E stiamo anche studiando per diventare preteri intenzionalisti. Ora, cioè creare opere d'arte a nostra insaputa. Inconsapevolmente. Ora noi chiuderemo questo Vertur con un brano musicale. Noi musicalmente appartiamo a uno stile che si chiama I Decompositori. Cioè, noi togliamo note, asportiamo note, sì, lasciamo che il pezzo sia a macerare, si decompone, affinché si riconosca solo all'inizio e poi si trasformi. Si riconosce all'inizio anche perché diremo il titolo. Certo. Prego la mia chitarra personale, per favore. La chitarra personale. Il titolo della canzone, che è attinente ai misteri buffi, non c'è niente da ridere. Perché poi ritorno a sentire? Allora, ho visto un re, che è attinente, perché la scritta Dario, io ho avuto l'onore di farla sul palco con Dario Fo, Enzo Iannacci e Giorgio Gaber, e stasera ho il privilegio di distruggerla con te. Bene. Ok, allora, ho visto un re, e chiudiamo l'overture. Sì, la facciamo in là. Tu non vieni? No, non vengo, in là. C'è buio, non c'è la luce. Se tu vuoi farla in lì, basta che la fai in là. Ho visto un re. In là. Si fa. In là. Io la farei in qui diesis. Vabbè, dai, ma basta con la c'è. Ti devo dire una cosa personale. Personale? Sì. Che succede? Oh, c'è una in seconda fila che mi fissa da 20 minuti. Che uomo fortunato che sei tu, proprio. Ho visto un re, dai. Allora, visto che siamo a Milano, la facciamo country. Country west. Sì. La postura, la postura, sì. Ringo. Da tre vuoi essere Ringo? Chi è quello? Il coyote con le scarpe strette. Ding-dong, ding-dong, ding-dong. Oh, beh, sì, ho visto un re. C'è cosa hai visto tu? Luce in sala. Come? No, stai scherzando? Scusa, interrompiamo lo spettacolo. Non puoi farla in pugliese. Ma questo è un gran malotte. Non è un gran malotte. No, questa canzone è l'orgasmo della, l'orgoglio della Padania. Non puoi farla in pugliese. Butta giù il buio. Non puoi farla. Ti ricordi quando sei venuto su da noi? Ti ricordi quando eri straniero e io ti ho accolto? Ti ricordi? Che ti ho insegnato il milanese, con quella tristezza e quella fatica. Dai, che funziona, dai. Oh, beh, sì, beh. Che succede? Soffriva troppo il coyote. Oh, beh, sì, beh. Oh, beh, sì, beh. Oh, visto un re. Sala viscusa, sì? Né? Falla come prima, falla come prima. La faccio come da testo, eh. Un re, che piangeva. Piangeva tante lacrime, ma tante gente bagnava anche il cavallo. Ah, beh, sì, beh. Povero re, e povero anche il cavallo. E così la canta, mica volevo. L'imperatore li ha portato via, un bel castello di 32 che lui c'è. Ah, beh. E moglie ne avanzano 31 di castelli. 32 meno 1, 31. È arrivato il governo tecnico. Ci vuole trasparenza, ci vuole, capito? In questi esempi. Ho visto un vecchio. Oh, che hai visto? Un vescovo. Un vescovo. Che piangeva. Così piangeva il vescovo. Faceva un gran baccano. No. Mordeva anche la mano. La mano di chi? La mano del sacrestano. Ah beh, sì. Povero vescovo. E povero anche il sacrista. E povero anche il cavallo. Non c'era cavallo! Allora non ci può essere un cavallo nella sacrestia di un country western. Andava a piedi. L'imperatore li ha portato via. Una pastiglia. E fare come Jimi Hendrix, le ha portato via una pazzia di 32 che lui c'è. Hai capito il vescovo e l'amico, il re? Castello 32, abbazia 32. Tanto che gliene frega, mica la pagano l'IMU, l'ICI, quello. Che gliene frega quello, voglio accumulare il patrimonio immobiliare, il latifondo immobiliare proprio, accumuliamo. E dai, dai. È arrivato Masaniello. No, vabbè. Siamo un duo noi. Noi siamo un duo. Siamo un duo. Siamo due, certo. Tu fai la fine di Romina, te lo dico io. O di Garfunkel. O di quello degli 883, che non so come cazzo si chiama. Preferisco Romina, quella si arrabbia sempre. Ho visto un Rick. No, non ti dico. Poi dicono che sei un uomo. Un riccone. Un uomo molto ricco. Che versava lacrime amare di vino. Che tutto il vino se ne acquava, povero ricco, povero vino, e il cavallo era morto! Gli aveva tagliato la testa, aveva messo la testa del cavallo nel letto del vescovo. Capito? Oh, Dio, la testa, questa è normale. Il ricco piangeva, perché? Perché? Perché l'imperatore sia via un emittente di 32 che lui c'è. Ah, beh, povero ricco, povero. Sì, dove sta? Gran finale. Questo strumento me l'ha disegnato Morgan in persona. È un po' sentuista comunque. Ho visto un contadino. Chi? Un villano. Villano. Villano! Piangeva! No! Sì. Non portato via... La faccio la Iannacci. Sì, sì. Non portato via tutta la cosa... Non si capisce niente. È uno stile. Gli hanno portato via tutta la... il Prussel. Il porco. Ah. Gli hanno portato via il fico Beniamino. Ma quello è Ficus Benjamin. Era un fico italiano, fico Beniamino. La scatola di kiwi. Il poster di Little Tony della lotta del colesterolo contro i fermenti lattici dell'intestino della Marcuzzi. Povera donna che c'ha la biscia viscida. Che c'ha la Marcuzzi? C'ha la biscia viscida. Ma quello è il bifido. No, in italiano è biscia viscida. Tutta l'ultimo CD del principe Emanuele Filiberto con Pupo e l'altro che non so qual cazzo si chiama. Il tenore, quello che sta Pupo, Pippo, Pippo, Plaute, Paperino. L'opera omnia di Rocco Siffredi. Il cofanetto. Ma che cofanetto, un baule dorato. Anche la casa. Pura ex ministro Bertolaso con l'elicottero che gli ha dato in liquidazione la protezione civile è arrivato, ha preso la casa e l'ha messa dentro il Colosseo, l'ha nascosta lì. E Scaiola ha detto, è quella, non quell'altra. La famosa casa, quel di... Ma lui non piangeva. E che faceva? No, ridacchiava. Era imbattito proprio così, no. No. Il fatto è... Il fatto è... che noi villani... che noi villani... e sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, si pensa... Grazie, andiamo fuori tempo anche da soli! E sempre allegri bisogna stare, e il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventano tristi. Fai un virtuosismo. Faccio da solo? Sì, vai, vai. Se noi piangiamo, ah, beh. Grazie. Il grazie. Maestro Emanuele dell'Aquila. Grazie, grazie. Bene, signori. Adesso, dopo che abbiamo parlato della possibilità di riprendere post essere risata, affrontiamo il mistero buffo, uno dei primi, che narra della nascita del comico, del saltimbanco, del cantastorie comico. Allora, scusate, intanto devo raccontarvi prima la trama, perché non la recito in italiano, la recito in padano antico, a tal punto che anche io a un certo punto non so quello che dico. In realtà non è un padano antico, non scherzo. È una sorta di lingua babelica che noi ci stiamo inventando perché se torniamo come possibile a lavorare per strada, cioè sono molti stranieri, dobbiamo farci capire. E quindi è un multilingue, c'è l'emiliano, ci sono francesismi, anglicismi, frasi da spot, da canzoni famose del passato, del presente. Una lingua, come dicevo, babelica. Allora, qui si parla di un comico. Allora, intanto, non è che uno nasce comico perché ha un talento particolare. Un difetto fisico può avvantaggiare. Aiuto, aiuto, aiuto. Uno basso è privilegiato. Però abbiamo visto che in questo paese uno basso può aspirare anche a cariche molto più elevate. E non per questo non rinunciare a raccontare barzellette. Male, ma raccontare. Ora, il problema è un altro. No, qui si parla della storia di un contadino. Uno che lavora la terra, una terra non sua, ha una famiglia che adora, moglie e figli, però non riesce a goderne perché il lavoro della terra stanca. Un bel giorno si imbatte in una terra che non aveva visto prima, chiede informazioni, gli dicono che è di nessuno, lui è bravo come contadino, si accorge che la terra è fertile, la occupa. A questo punto però arrivano tre personaggi a rivendicare quel luogo, personaggi a cui il nostro contadino si ribellerà, andando incontro così però a un tragico destino, per lui e per la sua famiglia. Ma con un colpo di coda finale ci sarà un happy end, quando questo contadino incontrerà in una trattoria particolare, Gesù in un'ultima cena molto pop, molto particolare, con un Gesù molto simpatico, altrettanto popolare. Ora, questo è uno spettacolo che si recita, come abbiamo capito, col pubblico, non al pubblico, per cui se uno non capisse quello che dico, può sempre alzarsi e dire: signor Rossi, non ho capito. E io vado avanti lo stesso. Partiamo. Siamo pronti? Sì, vai. Lì arriva la saltimbanca, fa ridere i vestienti e i piccini. Cosa ho detto? Oddio, l'ho spaventata, no? Tranquilla, no, tranquilla, tranquilla. Sono stato troppo aggressivo, scusa. Scusa, guardami, guardami. Guardami, resta con me, resta con me. Guardami, guardami, vedi? Non c'è niente qui, vedi? È teatro. Teatro, questa parola che gira ancora nei corridoi del Ministero della Cultura. Dicono teatro. Teatro? Teatro, teatro. Ma cosa sono questi luoghi dove delle persone vive incontrano delle altre persone vive e si divertono senza che ci sia un ministro o una troia? Cosa sono? Scusate, scusate. Io non sono strumento. Scusate, mi è scappato il turpiloquio, ma sempre in agguato con la commedia dell'arte. Mi dispiace veramente, la parolaccia mi è sfuggita. Io ho tre figli e mai davanti a loro mi è scappata la parola ministro, giuro, mai. E quindi chiedo scusa e ricomincio, via. Allora, lei va a saltimbanche, a far ridere i vecchietti e i piccinini, a far ridere i bei, a far ridere i brutti, a far ridere gli storci, gli stronzignacoli. Yeah, ha fatto ridere un gobbo, un gobbino, un gobbetto. Ho fatto fare una ridata al gobbo, una ridata, che la gobba da te treva che ti è venuta le lacrime. Ma non dovevi pensare che quando sono nato, la premiera roba che l'ha detto il mio papà, il mio papito, quando l'ha descoperto la culla, l'è stata: mamma mia, sei brutto! Oh Deo, grazie. Oh Deo, don't let me down. Help, help. All you need is love, ma stucchino è brutto forte però. Poteria far cambio con una pentola di couscous con la polenta, che farei più contenti che i fratelli. E non è neanche successo che un giorno, specchiandomi in the mirror, specchiandomi nel culo della padella lucente, mi sono guardato e ho detto: guarda che faccia da figlio di puttana sono fisca, no? Figlio di puttana simpatico, però guarda. Oh, vero, questa è la tua, è non è simpatico, questa è la mia. Potrei fare il comico, non lavoreria più, mi riempiria le tasche dei soldi, dei schei, dei poveri, mi contorneria le belle donne più di un politico italico, ma mi senza pagarle. E non è neanche successo che il Dio unicum e maximum, che sta là, in sky, solo solingo, le solo Dio, le unicum, le maximum, ma le unicum, ed è amaro essere unico. Non è una battuta, mi è uscita così, ma mi rendo conto io stesso che era puttanata, ma è uscita, ma così, non volevo. Lei è sempre solo, quanto si annoia, si fa i complimenti da solo. Guarda, ma che creato, che ho creato. Bravo, grazie, chi è? Sono io, sono solo. Guarda le montagne, tutti io, complimenti. Che idea ho avuto a mettere i ghiacciai sulla punta? Genio, grazie. No, guarda sull'alberello, sul rametto, i passerottini che sbattono la luce, e nel fiume, in the river, i pesciolini che nuotano. Pensa che casino si faceva al contrario. I pesciolini sui rametti. No. Guarda, no signora, non si giri, sto recitando. Guarda, la tigre e l'agnello che dormono insieme imbracciati. Va che foto, va che UNESCO color of Benetton che ho fatto. Poi improvvisamente il vede me e dice: mamma, sto che è più forte, via da che subito. Via, nominato, fare la mia reality. Ma scusi, una pennellata di bruttezza esalta la bellezza. No, brutto. Ma con la testa. Potrei fare il comico. No. Non è successo così. Non è successo colà. Mi lavoravi la terra. Una terra non mia. Mi sudavo e lavorare la sera spacca le gambe. La scena scorre il petto. La prima rugiada per sta terra era il mio sudore. E quando tornavo a casa, non avevo la forza per giocare con i miei fiori. E nemmeno quello per far giochi d'amore con la mia mogliera che la mi aspettava come la maia desnuda sul letto con le tette che le vibrava da sole. Sì, non c'è da ridere, signora. Mia moglie era una donna elettrica. Anche quando stava stand by le tette vibrava come tocca in caramel che mi veniva la voglia di far l'amore, ma io ero stanco, mi mettevo nella posizione del volo dell'aquila, spiccavo il volo e a metà del volo sprofondavo un sogno nero. Un sogno negro, e i sogni negri durano 2 minuti. Appena mi addormentavo mi svegliava il canto del gallo e mi rispondevo in codice: che cricchi, puttana Eva! Un bel giorno, tornando a casa come un pendolare con la barcarola, salto l'argine, mi giro, boh, mi ritrovo di fronte una montagnola che non avevo mai visto prima. Dico, ma da dove l'aveva fatta? Ma sono perduto. Vedo un pescatore, vado a domandare al pescatore. Pescatore, ma sta montagnola, da dove la viene fuori? Mi ha detto, Tommy, I don't know, non so. Noi la chiamiamo la cacata del diavolo. La cacata del diavolo? Povero diavolo. E se vi mi ha fatto male al culo a cagare la montagna loro. E povero anche chi passeggiava sotto non sapeva che il diavolo stava defecando. Ma scusa pescatore, ma la terra di chi è? Chi è? Le de nessun. Boh, mi sono arrampicato sulla montagnola, l'ho grattato con le unce. Mi sembrava come contadino, eh. Era una terra fertile. Subito ho sentito odore di merda. Senti che odore di merda, senti. È merda questo, merda quello. Terra occupata! Mia! Sono tornato a casa che sembrava Mosè che tornava da Sharm el Sheikh. Facciamo fuori la famiglia, fuori. Fuori, fiori, mugliera, rompi con altri, forse. Allora ho trovato una terra che era la nostra. Come la si chiama? Il nome non è il massimo. La cagata del diavolo. Ma adesso è mia, cambierò con uno più suggestivo. La scurezza dell'angelo. Perché comunque l'odore cari permane, ma comunque. Che bei days, che happy days. Che wonderful world. Che bocca e tre bolle trovi alla terra con la tua famiglia vicino. Il fiore che gioca, ti zappi, la mogliera che ti aiuta a portare i secchi d'acqua. Allora, deve ricordare, se vibrava le tette a mia moglie quando la stava ferma, cosa succedeva quando la portava? Io ero uno scampanio, una Pasqua. Bei giorni, finché un giorno, che bello non fu. Mentre lavoro mi disturba un rumore del zoccoli. Lo zoccolamento. In fondo all'orizzonte, là, allo stradone col bagliore, uno spolverasso, e fuori dallo spolverasso vedi degli uomini a cavallo, e il premiero l'era il paron della valle. Mentre racconto la storia lo vedo come vedo voi adesso qua. Lui mi arriva di fronte e mi fa, ehi, allora, chi sei che ha fatto questo miracolamento in sta terra? Sono stamifero, però è una terra magica, pensi che ieri ho piantato 2 granelli di senape, sono smontati 8 wurster. Però, è di chi la testa terra? Però, le radenisce una, è mia. Tua! Non sei niente di tuo qua. Tutto quel che qua vivi e mori, sei mio! Tutto tuo, però? Allora, scusa, se mi spudo per terra, lo scheratro lì è tuo anche quello. Non c'è parma per il culo. Mi tornerò. E ti devi andare via. Complimenti alla famiglia. Però la mogliera. Ho guardato la famiglia così, tranquilli, sereni. Questa terra è la mia terra. La terra di chi la lavora. Il lavoro di chi lo fa. Non verrà più nessuno. Giorno dopo, stessa ora, stesso punto, stradone col bagliore. Un puntino nero piccolino all'orizzonte. Mi l'ho riconosciuto da lontano. Il prevete e il prete. Le arrivava il prete, in groppa al suo somaro sotto la granicola del sole. Ah, sudava il prevete, e sudava anche il somaro, e il sudore del prevete si mischiava con il somaro, il sudore del prevete e il sudore del somaro insieme arrivava in terra, e appena arrivava in terra, il sudore del prevete e il sudore del somaro, la terra la faceva la raccolta differenziata. Il sudore del prevete di qua, quello del somaro di là. Mi guardo il prevete e dico, salve prevete, salghe, è il prevere. Buongiorno. Buongiorno, sono qui per un'indagine catechistica. Il Papa è santo come padre o come padre è un santo? Chiedo un marzullo. Non sa, posso chiedere aiuto a casa. Allora guardami, pregno di mancanza di ignoranza. Tu non sai che ieri, rispondendo male al padrone della valle, hai offeso l'albero ginecologico papale. L'albero ginecologico? Mi conosco, i madri ginecologici, ma che esisti? Allora ti spiego la storia, ascoltami. Anno sono, Papa Scafandro 47 bis. Uomo probo e pregno di rigore religioso, stava facendo un esorcismo a una suora indemoniata di sesso perverso di tipo erotico. Suora gigantesca, aveva la nonna. La collisione tra il piccolo Papa e la terribile suora fu terrificante. Il Papa rimase schiacciato sotto la nonna. Più volte gridò, ispocco, ma non riusciva a esprimersi. E dopo 9 mesi partorì una bambina. Oh. Non il Papa, la sua. A questa bimba venne dato un nome. Ruby. Il papà non poteva tenere la piccola Ruby, perché il Papa è santo come padre, ma come padre non è un santo. Era la soluzione del quiz, ma comunque. E allora chiamò un cavaliere di fiducia, Lele Morra. E perché chiamò Lele Morra? Perché Lele Morra era uomo di fede. Torna tutto bene, attenzione. Gli disse, Lele, aiutami, io non posso tenere la piccola Ruby. E Lele Morra disse, non ti preoccupare. La tengo io la piccola Ruby, anzi la darò in adozione, così fece, a un sacrestano di Roviga che conviveva con un tronista di Senigallia, figlio di un transessuale di Bolzano. I tre crebbero la piccola Ruby come fossero una piccola famiglia normale, ma quando la bambina, la piccola Ruby, arrivò a 18 anni di età, che gli mancava tanto così, che quando una ragazza di 18 anni manca tanto così per avere 18 anni, non si vede a occhio nudo. Come fa? Dissero la verità. Ruby, noi non siamo tuo padre. Ora, già quando in tre ti dicono non siamo tuo padre, disorientano la fanciulla. Boh. E gli dissero anche, la tua vera mamma è Elton John. La bambina cadde in una crisi isterica e disse, no, volevo Gianna Nannini. E incominciò a fare vita disseminata e dissipata nelle discoteche, finché in un'equivoca discoteca, in una retata, venne arrestata subito. Papa Scafandro 47 bis, preoccupato, chiamò l'ex imperatore del paese, l'ex imperatore, Silvio Doro I, uomo che era sempre stato molto generoso con le ragazze di 18 anni che gli mancava tanto così. Uomo che aveva riscritto tutte le favole di Andersen per rendere più ottimista il paese. E la migliore gli era venuta la piccola fiammiferaia, che nella sua versione non moriva più assiderata per strada nel ghiaccio durante la notte di Natale, come voleva la stampa di sinistra, ma diventava assessore alle strutture pubbliche della regione Calabria. Ma detto questo, subito, l'imperatore, ex imperatore, si pose davanti al carcere e disse, esca il direttore, usci il direttore, tale bel Pietro. Uscì e disse, bel Pietro, non si capisce un cazzo di quello che dici. E di quello che scrivi, non lo dico io, lo dice il personaggio. Libera la piccola Ruby! Ma coglione, non lo dico io, lo dice il personaggio. Libera la piccola Ruby! Perché la piccola Ruby è nipote del visir di Costantinopoli! Porca puttana! Quando la piccola Ruby uscì dal carcere, mettiamoci tutti in una ragazza di 18 anni che gli manca tanto così. Siamo stati tutti ragazzi di 18 anni che gli mancava tanto così. Hai 18 anni, ti manca tanto così. Esci, vedi l'imperatore che ne ha 86, è naturale che ti innamori subito e mi dici, è la natura umana. E per 5 milioni di euro la piccola Ruby rimase a dormire la notte con lui. Cosa che uscendo da personaggio avrei fatto anch'io. 5 milioni, ragazzi. 5 milioni di euro. Subito, allora, Allora, da quella notte in sergenda il contadino ignorante. No! Il padrone della valle, ecco perché tu offendesti l'albero ginecologico. Beh, mi scuso con tutti, tranne che con Belpietro, con tutti mi scuso. Mi scuso anche con la faccia del tuo somaro. E perché con la faccia del mio somaro? Nel caso mi sbagliassi, diciamo in faccia lui invece di te. Pum! Tirare una botta alla testa del prete che aveva tenuto come un'anguria. In preda al libero arbitro, il somarello è fuggito. Il prete lo rincorreva e diceva, somarello, torna nel tuo prendicello, somarello. Ma è mica facile per un somaro a quattro zampe al galoppo fare quel gesto dell'ombrella. Guardato la mia famiglia, ho detto, sereno! Questa terra è la mia terra. Voglio vedere chi viene a portarmela via. Il giorno dopo, stessa ora, stesso punto. Un punton più grosso. È il notaro, è il notaio. L'ho riconosciuto per il gran culo che il porta. Perché i notai che ha tutti un gran culo a essere notai. Anche il suo somaro che aveva un gran culo per far pendant col culo del barone. Una cosmogonia culonica avanzava verso di me. Non capivo se discendeva il culon del notaio o se ne alzava il culon del somaro. Un'eclissi dei culi. E in mezzo all'eclissi dei culi una voce. Buongiorno. E parla come il prevete. Per forza, mio papà. Che alberi ginecologici che esistono in paese. Incomincio a imparargli anche a me. Dimmi, notaro. Allora, guarda. Ho così un problema. Io, perché sono andato. Non ho seguito la successione del dia. Oh, sì. È molto incassoso quello che è successo ieri. Suo padre parlava meglio, lo so. Era una formazione genetica. Allora, però ascoltiamo. Allora, ieri, il padrone della vacca. Ieri, il padrone della vacca. Pensa se arriva uno dentro adesso e dice che cazzo rosso mi ha messo male. E allora il padrone della valle, a lei ce l'abbia, se è in prima fila lo capisci che cazzo sono qui. E allora il padrone della valle è rimasto male. Perché il contadino dice che la cacciata del diavolo è tua. E io ho il mio avere, la mia terra, la mia banca, che gli denganza tutti in giro. Come può? A cagare gli altri, stai qui? Allora, me l'ero dimenticata. E ha fatto tosto una legge sul legittimo dismenticamento. Cioè, cos'è? Un contadino! In questo paese la legge è uguale per tutti, ma diverso per nessuno se visti insieme con le dovute differenze. Cioè, per un ricco la legge è un conto, per un povero la legge è un altro. Per un povero, fatta legge, bisogna trovare inganno. Per un ricco, scoperto l'inganno, basta rifare la legge. È chiaro? Mi scuso con tutti, mi scuso anche. Vuoi fare quello che hai fatto mio papà? L'è scappato al galoppo! Ma tanta ira la paura che l'è scappato, lui sotto il somaro sola. Povera della famiglia che ho detto, tranquilli, questa terra è la mia terra. Adesso mi metto qui sulla collina, li vedo arrivare prima da qui e gli vado incontro. Questa terra è la mia terra. Che è successo? Beh, io non ho voglia di raccontarlo adesso. Lo racconterò fra un po'. Posso dire che sono arrivati da dietro. E quello che è successo alla mia famiglia non è stato molto bello. Però posso dire che da quel giorno io penso che le donne e i bambini sono belli, ma fragili come i bicchieri di cristallo. E un bicchiere di cristallo quando cade non si riaggiusta più. L'uomo è fatto di legno, vedete, la gamba di quel tavolino si può riparare, il cristallo no. Ma è incredibile come, nonostante questo, a volte, anche se non riaggiustati, una donna e un bambino riescono ad andare avanti. Un uomo maturo, no. E io da quel giorno, che vi racconterò poi, non ho più lavorato la terra. Ho cominciato a bere. Perché? Perché mi avevano detto che bevendo nell'alcol i brutti ricordi affogano. Non sapevo che galleggiano. Ma un giorno, e quello fu di nuovo un bel giorno, stavo facendo l'ultimo giro delle bevute, vedo una trattoria, dico, vado io, vediamo un attimo, entro, mi viene incontro il trattore. Addirittura. Sì, c'è il padrone. Dico, mi metto a quel tavolo, bevo un bicchierino. No, a quel tavolo no. Perché a quel tavolo? Hanno già prenotato per una cena, sono in 13. In 13 a cena? Ma porta malissimo. Non da oggi, da domani. Da domani? E chi è che ha prenotato? Non lo so, hanno detto che si chiamano i ragazzi della Via Crucis. Signori, in quel momento, una musica dell'egrezza, dell'estremità, l'entrata del giorno di applausi, è arrivato il Gesù con la banda degli apostoli simpaticissimi, la Maria Dio. Ma che simpatici, Gesù, se li ha messi davanti, si è messo a tavola e ha ordinato i discepoli. Mettiamoci tutti come nel quadro. Stessi posti, stessi gesti. Tutti con me, dai, si spezza il pane, dopo si beve il vino prima. Dai, tutti con me. Un, due, tre. Devi morire. Tutti insieme, va, si spezza il pane, dopo beve il vino. Dai, va, chi non salta un centurione, arriva Maddalena, arriva Maddalena. Arriva Maddalena. Ehi, Maddalena. Arriva. Maddalena, una canzone per te, dai. Non te l'aspettavi, Le canzoni nascono così. Prima la parola, poi la musica. A volte prima la musica, poi le parole. A cazzo. Come quando fumi i fiori di zocca. Ormai hai provato a fumare i fiori di zocca, Maddalena. Appena fumi i fiori di zocca ti dimentichi la canzone. Prima ti dimentichi le parole, poi la musica, la parola. A cazzo c'è quella. E poi, chi è quella signora? Maddalena. Ah, scherzavo, Maddalena! Dai che ci diverto, un piacino, dai. Vabbè, si beve, si brinda. Prima si beve, poi si spezza il pane. E tu, Pietro, prima che il gallo canti tre volte, mi tradirai. Ma adesso, ma quando sei ciucco ti incazzi sempre con me. Si beve, mamma, sto bevendo, ma è l'ultima cena, se non bevo stasera. Non ho le analisi domani, mamma. Mamma, basta coi paragoni con Giovanni Battista. Basta coi confronti con mio cugino, non ce la faccio più. E da quando ero così? E guarda tuo cugino, guarda Giovanni, vegetariano, tu, grigliatemi. Lui ha scelta, tu, le prostitute, lavano i piedi. Mamma, basta! Ma guarda com'è finito Giovanni Battista! E com'è finito? Ho perso la testa per una ballerina. Luca, non scrivere tutto, dai, prendiamo e beviamo. Contadino, vieni a me. Io dico, no, maestro, io bevo da solo. In verità ti dico, contadino, che chi non beve in compagnia non è figlio di mia mamma. Vieni a bere con noi, non posso. È successo un fatto brutto. Allora è successo un fatto brutto. Figurati cosa succede a me domani. Contadino, vieni qui, non ti preoccupare. Vieni, ascoltami. Non esiste un fatto brutto che non si possa raccontare. E raccontandolo, portare conforto, moralità, anche divertimento e superare il turbamento. Dici, maestro, va bene, allora te la racconto. Allora, in sintesi, racconto quello che è successo prima. Mi lavora la terra, a terra mia, terra che c'è la cagata del diavolo, che ci spacca la schiena, pim, pim, puttana Eva. Allora, mi metto lì e li vedo arrivare. Invece, adesso quella volta sono arrivati da dietro. Io all'inizio non me ne sono accorto perché pensavo di essere caduto sotto un incantesimo. Non sentivo più le gambe, le braccia. Mi tenevano stretto, però gli occhi erano aperti. E ho visto. Ho visto il padrone della valle scendere dal cavallo, andare verso mia moglie, strappargli la camicetta e gettarsi addosso a lei come se mia moglie fosse un pezzo di carne. E l'ha fatto davanti ai bambini che guardavano, perché i bambini ci guardano, signore. Io non so dove ho trovato la forza, mi sono trovato un bastone in mano ed è stato l'urlo di mia moglie che mi ha fermato, mi ha detto: fermati! Fermati, amor mio, è un pretesto che cercano per uccidere. E allora ho lasciato il bastone. E poi, cosa mi ricordo ancora? Ah sì, che è arrivato il padrone della valle e mi ha detto: bravo, la terra adesso l'hai ben pagata e per un po' la puoi tenere. Ma io da quel giorno, maestro, mica ho lavorato più. Io da quel giorno bevo e non ho smesso. La più brutta storia su un attimo. Tommaso, vieni qui. Tu cosa ne pensi? Meno che credo. L'ho chiesto a quello giusto, l'ho chiesto. Va bene, facciamo un miracolo che non era previsto. La nascita del saltimbanco comico, del canto storie. Allora, Marco, Matteo, Luca, Giovanna, fuori taccuini, fuori la birra. Giovanna, un'altra verità svelata. Non erano tutti maschi. Pronti. Allora, Giuda, lo so da me che siamo in ritardo. Giuda! Lo so da... Siamo in ritardo. Va avanti, tira il giardino e comincia a baciarsi da solo. Ti vieni qui. Adesso, mio contadino, ti darò il bacio del Gesù, trasformerà il tuo corpo in un arlecchino elettrico. Te parlerà 118 lingue contemporaneamente, ti capirà in tutto il mondo e ti porterà con forza e divertimento. Vieni qua per il bacio del Gesù. Mamma mia, che baso! Baso da Dio o no? Scrivere, baciare da Dio. Allora come ti senti? Sono pronto, un salto in banco, pronto a fare i vicini, vicini, perfetto. Miracolo riuscito. Allora, poche regole, salto in banco, pochissime. Perché devo andare, la storia mi aspetta, anche Giuda le sue ragioni. Stiamo andando incontro a un'epoca strana. Quando racconti storie, non è che puoi puntare solo il dito verso gli altri. Devi raccontare anche le tue di colpe. E la tua colpa, aveva ragione tua moglie, non è stata quella di non aiutarla, a difenderla. Era un pretesto, l'avrebbero ucciso. E invece qui adesso abbiamo un testimone che racconterà la storia. No, la tua colpa è stata un'altra. Pensate che quando hai trovato la terra, non l'hai divisa con gli altri. Allora, questo non è un principio cristiano. Questo è il primo principio di un miracolo economico. Perché, vedi, se la gente dà valore al bene comune, il bene comune, più lo dividi, più si moltiplica. E se fosse stato in 300, 400 e arrivava al Paron, cosa faceva? Altra regola. Te l'ho detto, stiamo andando incontro a giorni strani, duri. Non bere più, né prima né dopo che racconti le storie. Perché vedi, d'ora in poi credo che la vera trasgressione sarà la lucidità. Perché sennò, figlio mio, come te fa a vedere la pagliuzza nell'occhio altrui se non ti accorgi della trave che ti pongono nel culo? Frasi. Secondo tempo. Allora, nel secondo tempo noi manteniamo il fil rouge del primo. Se tornasse oggi Gesù, e nel finale avrà finalmente un ruolo da protagonista anche il nostro simbolo, il povero Cristo clandestino. Lo spettacolo cambia ogni sera, ma stasera affronteremo una figura minore in overture di secondo tempo. Minore per modo di dire, San Giuseppe, e affrontando lui apriremo anche un varco sulla infanzia di Gesù secondo i Vangeli apocrifi. Ora, attenzione, mettiamoci in testa questo: se oggi ritornasse Gesù, ma se oggi a qualcuno di noi succedesse quello che è successo a Giuseppe, senti che rido solo le donne, questo è. che come oggi, no? Uno torna a casa, mette giù il soprabito, fa il corridoio. Ciao amore. Ciao tesoro. Novità? Voglio novità. Allora, torniamo indietro, pensiamo a Giuseppe. Quando tornava a casa, stanco dal lavoro, pieno di schegge, perché un falegname quando ha preoccupazioni, pensieri, si scheggia. Se andava da Maria, da Maria e diceva, Maria. Maria, ascolta, Maria, riparliamone. Lo so, ne abbiamo parlato anche ieri, anche l'altro ieri, però mi sento meglio. Allora, da capo. C'è stata una gran luce. Quant'era grande questa luce? 8 metri? Avevi detto 9 ieri, non era facile, eh? Per uno che è stato anche il primo capo famiglia di una famiglia di profughi che scappavano da Betlemme per raggiungere Nazareth con l'asinello, tirandolo con la corda, pieno di masserizie, la Madonnina, il bambino Gesù. E come faceva a passare tutti i posti di blocco che c'erano? Spiegando chi era, con quell'identità familiare, diciamo così, fragile. Lui arrivava lì e diceva, salve, buonasera, sono Giuseppe San. No, non sono cinese, no, non... Allora, sono San Giuseppe, questa è la mia famiglia, questa è Sacra, mia moglie, il bimbo che è nato da una fecondazione abbastanza assistita, devo dire. No, io sono il papà putativo, sono il putativo, neanche io so cosa vuol dire putativo, il padre vero non c'è, cioè, c'è, non è qui, e anche qui. Lui è qui e non è qui, è lì, è lì, è là, è là, che aspettava, è ovunque, è in giro, è in giro, è in giro, è sempre in giro, fa un lavoro, che lavoro fa, molto impegnativo, è un creativo. No, io sono un falegname, sono un artigiano, faccio mensole, comodini, attaccapanni, crocifissi. Ho capito che lei non sa cosa vuol dire, ma le assicuro, adesso vengono via niente, ma fra 33 anni è un affare della Madonna, direi, che anche mia moglie non si chiamasse così. Non era facile, eh? Non era facile. Poi, il bambino Gesù non era un bambino facile, non è bambino come ci aspettiamo, quei boccoli biondi, dolci, tenero, che esce dal mulino bianco con bandera, se gli fai tost, no? No, l'ho visto ieri. No, era un bambino tutto pieno di complessi, di problemi. Immagino che girava per le strade di Nazareth tutto. Devo salvare il mondo, Cristo. Chi è? Sono io. Non era facile. È permaloso. Poi gli dà dentro uno per strada. Ma gli dato dentro. Scusa, non te l'ho visto. Tu non m'hai visto perché non credi in me. Uè, Palestina, stiamo tranquilli un attimo. Tranquilli, tu non l'hai mai visto perché non hai fede. Io non ho fede, io te do un schiaffone. Se tu mi dai uno schiaffone, io ti porgo l'altra guancia. E io te lo do anche sull'altra guancia, bravo. E poi le guance sono finite, tocca a me. Allora, questa era tagliata, l'hanno tagliata, ma c'era. Era un bambino che odiava i ricchi. Odiava? Un odio per i ricchi, uscivano solo di notte, per paura di incontrarlo. E non c'era luce elettrica, quindi si riempivano di anelli che rifrangessero con la luce lunare. Andò così, no? Anche dietro, per paura di essere tamponati. Eri indigeno in giro, il teppista palestinese. No. E invece no, lui era nascosto dietro la colonna, appena li vedeva. Ricchi! No! Ricchi! No! Aureola spaziale! Stimmate di fuoco! Ma me lo vuoi dire che ho gli occhiali qui da 5.000? Ricchi, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nella casa di mio padre. I ricchi appena tornavano a casa, andate a comprare un cammello. Cammello, no? Prendevano il cammello, lo mettevano in salotto sul tappeto. Nonna, dai, tieni la cruna dell'ago. Dai, zio, mangiamo la bestia per il culo. Dai, spingilo. Non ci passo! Non ci passo! E poi anche se ci passo con la testa, ho due gambe! Era perdita! Non era detto più facile che una biscia da fiume? E che ci vuole? Uno spaghetto? Un cricetto. No, quello è un po' ciccio. Il cricetto è facile, così. Una scimmia. Sì, ma la scimmia. Pare. Scimmia è facilissimo, c'è la psicologia, la scimmia è rispettosa. Tu metti il la corona dell'aria e dici, scimmia. È uguale a quell'altro. A bel piede. Scimmia, questa è la cuna del lago, mi dispiacerebbe molto se ci passi attraverso, ti giri e la scimmia... Non era facile, però era umile. Per dire, i miracoli è iniziato un po' per volta. Le resurrezioni è iniziato con gli animali. Con gli animali? Con gli animali, prima. Le lucertole, vedevo una lucertola... Chi è che ha detto no? È Mimo, è teatro? No... È finto! Si è spaventata. Superstar! Le scimmie, le lucertole, ancora oggi temono il ritorno di Gesù Cristo. È per quello che i muri a volte si paralizzano così. Per far finta di essere morte, che c'è soddisfazione nel caso ritornasse. Però di guai ne procurava poi, perché comunque... Facciamo anche degli errori, allora ritorniamo a San Giuseppe. Io me lo ritorno, tornavo a casa sempre più pieno di schegge, più grosse. Sembrava San Sebastiano. Andava da Gesù e diceva, vieni qua. Adesso io e te parliamo da uomo. Parliamo. Dimmi, papi, putativo. No, non mi chiami putativo, e sei putativo. Allora, lo sai che mi dà sui nervi se mi chiamo putativo? Soprattutto tu. Putativo. Stai facendo dire, non sei mio padre! Lo vuoi capire che non sei mio padre? Lui non è mio padre! Lui è... La Madonna. No, non ti avevo chiamato Maria, però se è il caso... Allora, ascoltate, è facile per voi... Anche per un papà putativo. Il papà putativo porta il bambino in piscina, il bambino davanti che cammina sulle acque, il papà dietro a nuoto. No, povero Cristo, io sono un povero Cristo. Che tutte le volte che tornavi a casa mi dicevi, hai fatto il bagnetto al bambino, lo mettevo nella bacinella, rimbalza! Adesso vieni qua tu. Adesso mi dici la verità. Io sono la verità. Una sola. Sì, ma ho capito, ma si vizia. Allora, verità. Stanotte sei andato a giocare nel Camposanto con i tuoi amichetti? Stanotte sei andato a giocare nel Camposanto con i tuoi amichetti? No. E allora mi spieghi perché stamattina il paese è pieno di zombie, mezzi vivi, mezzi morti, che spaventano chiunque? Perché non sono ancora bravissimo. Però, che soddisfazioni dava a suo padre, anche putativo, quando arrivava Pasqua. Pasqua arrivava. Sì. Solo lui presentiva che potevano essere i giorni di Pasqua. Infatti andava in giro a dire buona Pasqua, tutti, chi cos'è? Saliva sul tavolo e recitava la canzoncina sua del fenomeno dal Vangelo secondo James Joyce e Iggy Pop. Sono il più gran fenomeno di cui si sia mai detto, o per mamma un'ebrea e per babbo un celletto, per beppe e falegname sono di parere contrario. Perciò beviamo tutti discepoli al Calvario. A chi non crede ancora all'essere mio divino, non darò a bere gratis quando farò il vino. Mamma dovrà bere l'acqua e chiaro gli sarà. Che faccio quando il vino in acqua tornerà? Addio cari compagni, scrivete quel che ho raccontato e dite a Tizio e a Caio che sono resuscitato. Data la mia ascendenza, certo volerò anch'io, e poi sul Monte Oliveto c'è vento. Addio. Però, tranquilli, che dopo 3 giorni torno. Il maestro Emanuele dell'Aquila. Io non ho grazie. Parole a volte. No, oh, vabbè, ho più bisogno. Come improvvisa il maestro, non improvvisa nessuno. Ora, signori, la parte più profonda della serata. La parte della passione. Sì. La passione, noi seguendo i dettami del teatro popolare, la recitiamo come la recitano nei paesini. Quando allestiscono queste rappresentazioni, recitano tutti. Recita il farmacista, il vigile urbano, il droghiere, l'assessore, il macellaio, tutti insieme. Qua. E recitano con gioia anche se il tema della passione, si divertono magari anche, soprattutto improvvisano come faremo noi adesso. Ma no, per dare un tono, un rigore nei momenti più intensi poi, chiamano spesso un'attrice o un attore professionista. E noi questa sera qui allo Strehler abbiamo l'onore di annunciare che reciteremo la passione con la divina Marcolfa. La divina Marcolfa. Ci crede la signora? Ho notato la tensione in sala. Ma per la risata della signora, che è la signora, la divina Marcolfa, sì, adesso sì. Reciterà con noi. Lo so che le fa piacere, l'aspettava, si ma vede. È stupito perché dice, ma come hai fatto a portare la divina Marcolfa? Allora spiego alla signora come ho fatto a portarla. La divina ultimamente ha dei piccoli problemi, capita agli attori molto intensi, che ti restano attaccati i personaggi, quindi gli escono dei personaggi a caso a volte, però voglio dire, signora, come lei conosce, è sempre la divina Marcolfa. Rimane sempre la sua l'aura è quella, no, la l'alone. Ah, ho capito. Gli ho dato una parola d'ordine perché entri con tranquillità. Una password. Avanti! Sarà cambiata la password. E quelle scadono, mo le faccio. Avanti! Vai dentro. Signori, la divina Marcolfa. Buonasera. Divina, lei non sa, non ho... Dai, vai via. Perché devi seguirmi? Okay. Dove sono? Buonasera. Il teatro, lo Strehler. Sì. No, lo so, lo il vedo. Il pubblico? Poi c'è una signora che l'aspettava con ansia. Davvero? Sì, noi divina siamo onorati di recitare con lei. Vai via, vai via. Chi sei tu? Sei un eunuco? No. Qui non ci sono su questo palco non ce ne sono eunuchi, proprio, divina. Cammina come lei per darmi la sua agio. Divina, è più fuori di quello che pensavo. Divina, noi siamo onoratissimi di recitare con lei. Johnny. Che? Chi è Johnny? Chi è Johnny? Venduga busta, gasto. Chi è che non ha no, pagato dai, già? Smettila! Io ho un mio devastato. Un po' si vede, un filino. A poco a poco però. Mettiamoci al tavolo e facciamo le prove. Il pubblico... psichiatra ha detto che devo continuare a recitare. Vedi, adesso sono in me. Benissimo. Allora, bene, sediamoci. Lei la lepre Marzolina? No, io non sono la lepre. E lei il cappellaio matto? E il bruco blu? Non c'è il bruco blu. No, non c'è. Io sono disperata. Allora, noi siamo qui per recitare la passione. Allora, io mi presento, io sono Paolo Elia. Rossi. Piacere. Sì, Paolo Rossi. Sì. Lui è Emanuele dell'Aquila. Sì. Allora io faccio il regista. Mi piace di conoscerla. Era tanto tempo che volevamo conoscerla. Ah, io sono lusingato incantato. E dovremmo fare recitare, questa recita. Sì. Certo, perché c'è il pubblico. C'è il pubblico. Allora, volevo dire, io faccio il regista e faccio Gesù. Non va affatto bene. A casa facciamo i conti. Ha capito. Ah, lo vedete anche voi? Come no? Ma tutti lo vedono. Prima ho ammazzato una lucertola e la signora l'ha vista benissimo. Non mi sembra problemi. Allora, davvero? Sì, no, vedono tutto. Quello che vede lei lo vedono loro. È un pubblico che vede. Allora, stavo dicendo, scusa. Allora, io faccio il regista e faccio anche la parte di Gesù. Ah, tu fai Gesù, fai. Sì. E lui fa Giuda. Ah, io devo fare Giuda. Gesù, Giuda. Te pareva, e il comprimario. Non è il comprimario. Gesù, no. Giuda, e lei fa... E lei faccio qui. E lei fa? E lei fa... L'abbiamo chiamato per fare? Per fare... Non il bruco blu. Non il bruco blu. No, ma ce la facciamo, tranquillo. Allora, Gesù. Gesù, Giuda, e lei fa la parte nella passione importante, la figura... Mi suggerite? La figura... Lady Madonna. Lady Madonna, perfetto. Gesù, allora, è la Madonna. Lo faccio. Le spiego il mio stile registico. Sì. Allora, guardi, io ho uno stile... Anche lei ha problemi? No. No, io sì ne ho, ma non fino a quel punto. Allora, è un teatro improvvisato, sicuramente. Ma non troppo. Ma non troppo, ecco, non troppo. Questo è la prima regola, esatto. Non troppo. La misura giusta, sì. Dopodiché, dico, è un teatro che... Io, a me piace farlo sul palco, sì. Certo. Ma certo. Poi che è un teatro che esca anche per strada. Sì. Per strada. Prima, per dire, lui fra un po' incomincerà a recitare, sì. Uscirà proprio dal teatro. Fisicamente, fuori. Fisicamente. E continuerà la recita fuori dal teatro. Fuori, devo andare, proprio fuori. Fuori dal teatro. E lo seguiamo col Twitter? Fuori. No, non lo seguiamo col Twitter. Il teatro che accade in più luoghi... Out, fa... è un outing. No, non è un outlet. No, no, no, no. È no. Un outlet. Non è neanche un outlet. È un teatro è un che si mescola con la vita. Outdoor. Un outdoor. Lui devo uscire fisicamente. Proprio. Uscirà, andrà alla caserma di... Dove c'è la caserma più vicina qui? Non è vasta. La caserma più vicina. Chiedi un po' d'acqua. Ma non siete di Milano? La caserma... Moscova, cosa sono Moscova? Non mi ricordo, polizia o carabinieri? Fratelli. No, carabinieri, no, carabinieri. Avrai Moscova, carabinieri? A Moscova. Sono carabinieri, ci impiegherai un po' di più a spiegarglielo, ma comunque io spiego. Gli spieghi. Però dici, correte, che dico? Correte al Teatro Strehler. Ai carabinieri, correte. C'è un pazzo che dice di essere il re dei giudei, teatro che si messo ancora lì. Lo troverete tra un po' i giardini, dove sono i giardini pubblici più loschi di Milano? Il parco, delle cave? Ah, parco delle cave! È l'otto. Come fa a saperlo? Come fa a sapere? Il parco? C'è un giardino l'otto. Allora vai al parco... Ma non lontano fare queste cose. Infatti, andiamo a Scova, prendi un taxi con i carabinieri. Prendi un taxi. Prendi un taxi. Allora, andiamo al parco delle cave. Aspetta, allora, io vado a Moscova, no? Sì. E dico ai carabinieri, oh, corriamo tutti insieme alla Strehler che c'è un passo. Che dice di essere dei giudei. Poi vado alle cave, sì, come dice John Lennon. Ma perché non c'è tu da solo denunciato? Perché non si è mai visto un Gesù che si va in via Moscova, costituisci nessun quadro, si è mai visto. Sì, ma perché ti devo tradire proprio io? Perché tu sei Giuda. È scritto. È scritto. E dov'è che è scritto? Ah, boh. Qualche, nelle sacre scritture, per esempio. Sì, certo. E anche negli apocrifici, quando... No, no, divina, quelli sono i cavalli con le ali. No. Non è Harry Potter. No, che c'entra Harry Potter? È la passione. Ma sono gli ippogrifi quelli! Sei sicuro? Sono gli ippogrifi! È scritto dappertutto, è scritto nelle Sacre Scritture, nei Vangeli Apocrifi, l'ha scritto... Nella Repubblica! Ma, quello di oggi! Andiamo avanti allora, andiamo dai, avanti! Dai, tirami in naso, dai! Sì, ma ti devo tradire io comunque! Sì, sei Giuda! È scritto, c'hai il fisico dural! C'hai il fisico rollatissimo, è posto! E poi guarda come ti sta bene! Porco Giuda! Oh. Porco Giuda! Ciao. Porco Giovanni, ma, sono appena uguale. Ma no, magari c'è uno in sala che si chiama Giovanni. C'è qualcuno in sala che si chiama Giovanni? Sì, Hai visto? L'hai preso? No, scusa, Giovanni. Ma quanti giudici sono in sala? Ci può essere uno che si chiama Giuda, dai. Ma non ce ne esistono, ce n'è vabbè. Uno. Sì, vedi, però se io poi con quel cognome Iscariota. Giuda Iscariota. che cognome è? In Francia Escargot. Un Giuda francese, ragazzi. Però vedi, andiamo avanti. No, non andiamo avanti. È spatrilla. È spatrilla. Ma io sono consapevole di essere deficiente. Non lo so. Ora, allora riprendiamo il filo. Sì, allora, sì. Però se io ti tradisco, dopo devo essere perseguitato dai cani. Sì, abbiamo già affittato 12 chihuahua isterici. Ah. Bellissimi, proprio che... bellissima la scena. Dai cani fino all'albero di fico. Dove c'è il tuo momento topico. Dove ti impicchi. Si impicca all'albero di fico. Lì è una scena, proprio già la vedo. Mi dispiace deluderti, ma non è possibile. Perché il fico è troppo basso. Ma... È un albero troppo basso. Oddio. Cioè, anche se lo chiamano fico, ma è basso. Non ho capito la risata, scusa. Neanche io. Non ho capito, vuol dire? Non puoi impiccarti a... Se io metto la corda al ramo del fico, tocco. Perché lui è di impiccatura. Ma non deve tuffarsi, divina. Deve impiccarti, ti impicchi con le gambe su. E ti leghiamo le gambe? Non lo so. Incaprettato, magari. Sì. Non puoi. Mi dispiace. Cos'è un impasse questo, ragazzi? Questo è un impasse. Questo è un cul-de-sac. No, il cul-de-sac è un bruttissimo posto. È un postaccio. E poi è difficile uscire da un cul-de-sac. Ma detto... ci vuole un sac de cul. Dov'è il regista? Va benissimo. Allora, cosa vuoi? Cosa vuoi? Ti proponi qualcosa? Proponi qualcosa? Proponiamo qualcosa. Do you want change? È il regista, è lui, mica io. Do you want change per dire quello che è? Do you want change? Do you want another tree? Scherzo. Vuoi un altro albero? If it's possible, if it... Yes, it's possible. Do you want a pioppo? Oh no, pioppo make pelucchi, I am allergic. Cipresso is better. Cipresso is better. Come? Si picca sul cipresso. Direttamente in cimitero, così risparmi i soldi al funerale. Cipressino corto, poi non ci si picca i cipressi. I cipressi sono alberi troppo flessibili. Uno si impiega un cipresso e fa... Jumping. Jumping? Eh? Jumping. Il regista che vuol dire bungee jumping. Bed and breakfast. Lì. Allora, per favore. Allora, sono il regista dello spettacolo. Allora, facciamo così. Ho l'idea. Ti impicchi con la vanga. E che idea tua? Ti metti il cappio... Poi tocchi con la vanga. A posto? Dai. No, guarda, allora, andiamo avanti. Ma guarda, mi dispiace, non me la sento di tradirti. Ma perché non sono motivato psicologicamente proprio, capito? Perché non sei un attore, qui dobbiamo recitare, dobbiamo fare la gente, io lo vedo che è sofferente. Non si, ho capito. Adivino, ma perché abbiamo chiamato un'attrice professionista? Perché abbiamo chiamato questa attrice professionista, secondo te? Perché cosa? È lei l'attrice professionista. Ecco, vedi? Sono io l'attrice professionista. Perché? Allora, perché ci siamo chiamati? Allora, tutto sotto controllo. Non... Tutto sotto controllo, non ci allora, abbiamo chiamato un'attrice professionista perché svelasse ai dilettanti il trucco per immedesimarsi e fingere l'odio nei miei confronti, indi il tradimento. Ecco. Quindi, un trucco del mestiere, direi. Esatto. Uno semplice. Facciamo il metodo basic. E, allora, come... la domanda è... Come, per dire... E... Dove? E... Why? Perché? Dove da? Dove... Mi da ridere perché non mi ricordo niente. Che scuole ho fatto io? Pensavo di aver fatto il piccolo teatro, ma non è mica. Allora, di Ada in con super traffa. Facciamo il metodo. Sufi. Il metodo Sufi. Dei maestri Sufi. Sufi. Battiato, tipo Battiato. Ah, ho capito. Lo devo fare anch'io così? No. Concentrati sul secondo chakra. E dov'è il secondo chakra? È tra il primo e il terzo, dai. Ma ce li ho io, chakra. Tutti abbiamo il chakra. Sei dentro il secondo chakra. Ma presta poco, in che zona è il secondo chakra? È tra il tra l'ombelico e giù. È il primo chakra, sì. Ho capito. E tu ti concentri lì a metà, ti vedi piccolino, sì, e gira, ti stai visualizzando, sì. Come sei vestito, ma fai niente, gira attorno a te, vai, vorticosamente, e il personaggio è da dietro. Ma io comincio a sentire qualcosa, No, adesso che stenta effettivamente... Volevo dire due parole al regista. Sì. Tu a me mi stai proprio sei qui. Ma come è diventato un attore pazzesco, neorealistico. Sulla poca della stomaco, complimenti. Ho bisogno, ne approfitto, perché tu lo devi smettere di alzare sempre la voce, di stare sempre a comandare. Ho capito che tu sei il regista, che sei il principale, diciamo così. Però devi darti una calmata, capito? E fai qui, fai quell'altro, prendi la vanga, scavati la fossa, e così, rotti coglioni, hai capito? E mo è arrivato il campione del mondo, è arrivato, hai capito? Il campione del mondo, il padre eterno, in verità ti dico io, tu ti do la capo, tu cazzati, e sei uno stronzo, ma uno stronzo con la S maiuscola, la S di Superman, super stronzo, con la S di S lunga, stronzo! È uscito, Divina. Sì. Ma me l'hai detto da attore, da persona o da personaggio? Tutti e tre, te lo dico. Vabbè, da questo punto comunque dobbiamo arrivare alla finale e ci deve essere che quando siamo al Parco delle Cave tu mi dai il bacio e i carabinieri... Non se ne parla proprio, pure il bacio si può dare. Il bacio di Giuda. Quello è scritto. È il bacio di Giuda, non è il bacio di Simone. Quello è la. Quello è il ballo di Simone. Quello è il ballo di Simone. Lo suonavo quello lì, sai. Il bacio di Giuda, drammaturgicamente parlando, dopo una buffata drammaturgica, è come il cioccolatino finale, non suona come un cioccolatino? Sì. Che uno arriva e dice, scusate, avete un bacio di Giuda? Mi viene da ridere perché tutte le sere è diverso, ma non devi entrare nel bar. Dire, entri in un bar e dici, scusate, è aperto questo bar? Scusate, è aperto questo bar? Eh sì, abbiamo aperto stasera. Siamo appena aperto proprio. Avete un bacio di Giuda? Adesso guardiamo, compare, abbiamo dei baci di Giuda? Ci sono solo le palle di morta. Se va bene, ma questo Giuda è un cretino. Ma non è un cretino. Ma Giuda è una figura importantissima. Ma guardate rispetto all'oggi, per dire, Giuda è uno che tradisce, ma poi si pente, si impicca, addirittura arriva a impiccarsi. Dimmi un politico oggi che si pente. Uno. Sicuramente non Formigoni. Non è a questo il punto. Allora, è un personaggio fondamentale. E quindi è così. E dopo il bacio di Giuda, c'è il momento suo, quello intenso della passione di Maria. Lei è pronta? La sala parte? Io sono pronta. E la facciamo allora? La facciamo sì, questa parte. Sì? La facciamo presto? Sì. Prego. E sto aspettando che mi si cambi la voce e entrare nel personaggio. Sì. Non vorrei usare il metodo dei maestri stufi. No. Userei un altro metodo più semplice. Toglierei le cose posticce sperando che la voce mi torni normale per dire... Vedi che cambia la voce? Ma è successo così anche a te? E perché questa è una preghiera, sì. È una laude antica, sì. Del medievale, e è in padano antico. Sì. È in padano... Sono allenati. E tratta di un tradimento, è il tradimento dell'arcangelo Gabriele nei confronti di Maria. Sto aspettando che la voce scenda. Non mi ricordo niente, come si fa? È il tradimento, perché non c'è nessun passo nei Vangeli dove si racconta a Maria del sacrificio di Gesù, cioè alle donne, a tutti viene raccontato, ma a Maria no. Allora Gesù è sulla croce qua di fronte a voi, e le donne sono sotto la croce, Maria sta arrivando, le donne vogliono impedire l'arrivo di Maria. Andi a fermarla! Le lentagni la tua mamma di lui, non fegge il vardasso, fioli in crusà, che pare un cavretto in scortega che con la sangue dappertutto, compagna una montagna di neve in primavera, per via di sti gran ciodi che gampica entro la carne dolorosa dei mani e dei piedi. Non fegge il vardà, non fegge il vardà, la ven correndo desesperata che in quattro non la potemo fermare. Se in quattro non la puoi fermare, fermela in cinque, in sei, ella non la può il vardà, non la può il vardà, fioli in torsega. Compagno una radis d'oliva magnata dai formiche, covrighe al manco la faccia al fiol de Deo, che la sua mamma non possa riconoscerlo. Sì, e diremo che l'incrusale è un oltar, è un foresto. Mia, creo che se anche lo coprissimo tutto con un gran lenzuol bianco, la sua mamma lo riconoscerà lo stesso, basta che spunti fuori un di de pie, un riso dei capelli, perché l'ha già fatto. La vedi, l'equiloga, beata Maria. A fariamento l'urma farla di un coltello, demonsa, scavo di trasmortirla, se la riversa per terra desesperata. Figlia, buona donna, Facciami beata. E come la può essere beata con sta decorazione de quattro ciodi che gampica entro la carne dolorosa? Compagno sfaria la luserta velenosa a un scurbaccio. Sentite che questa donna la sentirete gridare a tutta busa. Compagno se dolor l'ave squartata, squartata. Dolor de sette coltelate a spaccarghe il cor. A stare ferma, a disna got, perché la pianta manca un poc. Che abbia da sfogar su gran magun che il su fega il got. Intendi io sto gran silenzio che gran fracasso almena e non va al coprirsi le orecchie. Piangi, Maria, ti prego, parla. Parla, Maria! Datemi una scala. A voi montarga presso al Menan. O Menan, mi bello smorto fiol de mi come t'anconcià. Gli assassini, porcelli, beccari. Che cosa aveva fatto sto mentorno che aveva si scanda per tanta canaglia con lui? Ma vorrei rinti, male, avuna, avuna, avuna. Amla pagheria che dovete cascarvi in capo al mondo. Bestie, animali, sgraziati. Mamma, mamma, non sta a criar, mamma. Perdonami su burdeleri, ma è su strange dolor di trovarti chi loga. Ciunca, incrusa, de bot pesta. Sposarti bei mansi delicati e il pie che gota sangue deve essere un gran mal. No, mamma, adesso non senti più niente, non senti più una gotta. Vacca, mamma, te pregi, vacca. Sì, andremo qua insieme. Adesso mi avevi su questa scala. A voi tirarsi giù pian pian. Sciuda, aiuten quei dun, demo una tenaglia, aiuten, entra un soldato. Sacra donna, chi mi ha dato il permesso di salir sora via di questa scala? E si ultimi che ve incrusa voi sciuda a portarla qua con me. Non è ancora frolea, se appena tira gli ultimi a son fischet. Dai, vieni giù di questa scala, no che non vengo. E voi non potete farmi sempre potenza perché mi sono la tua mamma. Sono la tua mamma di lui, mi caro, la mia bella mamma di lui. Ma adesso fa sufficiente. Vieni giù da sta scala, altrimenti scrollo la croce come un albero de poni. Ecco, caro soldato, ecco, sono qua. Tenete questo anello d'oro e questi orecchini d'argento in cambio di un plagi che potei farmi. Catesto sale e andai sulla croce a metter sotto le braccia al mio fiol in modo che abbiate a respirare un po'. Al posto di piuttosto che tenerla lungo in vita farei che muoia il Cristo e subito morì. E dovrà giusto morire. Morte le mani, morta la bocca, morti gli occhi, morti i capelli. Ma il tradito, Gabriele. Gabriele! Giovin de dolce figura! Tu con la tua voce de viola innamorosa sei venuto a dirmi che sarei stata reina mi, iucunda mi e cap de tutte le donne vardume. L'ultima donna al mondo mi son descoperta e tu lo sapevi, nel portarmi in nunzi deslinguente, di farmi fiorire il violino intelventer che sarei venuta a questo bel trono, reina, sì, col fio cavaliere gentile con due speroni fatti con due ciodi, perché non ti l'hai mai dita avanti il segno? Mi non avrei mai voluto essere nido, manco fosse venuto il Deo Padre, onnipotente, non il colombo piovoso, a maritarmi, mamma, mamma, che ti sei diventata amata, mamma, che ti piace. Temi, portatela qua, fratelli, ve pregi, portatela qua, non casarmi via, Jesus. Oi da morì, mamma, e poi fatica, oi da lasciarmi andare, sconsumare il fiato che mi mantenga in vita, ma con ti, chi loga che ti stracci, a poi più gran fatica, incrusemme la stessa croce, voi morì, seppellitemi in una tomba imbrassata al mio fiore, Jesus, donna! È troppo grande il dolore, che testa lancia, si calenta il custo, il Cristo è il dulcicò, e il Cristo il va a morì, le svenuda, donne di fila, porra donna, la gai maluri, la gai maluri. Oddio, la si alza, la parla, la televisione, con chi la parla? Chi sei? Bel giovin, che mi par di riconoscere. Son Gabriel, l'angel di Dio, il nunzi del tuo delicato amore. Gabriel, torna in re. Torna a slargarti ali, Gabriel, torna in re. Torna in treno e tu bel ciel gioioso. Tu non ti ga niente che fare in sta sgarosa sera, in sto tormento mondo. Vai, Gabriele, che non si se sburdi gaiali, de plume colorate, gentil colori, non vedi il fango? E il sangue guagna messa la spusenta dappertutto. Vai, Gabriele, che non te se sbrenti gli uregi, tante ricane, sentire sto gridare desesperato che cresce in ogni parte. Vai, Gabriele, che non te se sconsumi oggi luminose nel rimirar piaghe, croste, bugnoni, mosche, vermini, fora dai morti squarciati. Tu non ti hai abituato, Gabriele, perché in dol paradiso tu non ti cani rumor, né plangi, né guerre, né prigioni, né uomini impiccati, né donne violate, né fame, né carestie, niunche tu da stracabraci, né fiori senza sorrisi, né donne smarite, scurite dal dolor, niunche pena per pagare il peccato. Vai, Gabriele, vai, Gabriele, vai, Gabriele. Il momento Goran. Liberato Goran, che Goran è libero. Il momento migliore è libero. È il momento peggiore per lui. Dai, tiralo, dai. Ma sai che è rigido Goran? È rigido, avrà preso il virus di Raffiger. Dai, giù. Ah, che è tutto d'un pezzo proprio Goran. Adesso lei non si deve spaventare, eh? No, nessuno, no. È tutto teatro simbolico. Lui è il simbolo dello spettacolo, il povero Cristo clandestino. Adesso noi lo crocifiggiamo. Ma è teatro, è tutto finto, un po' pazzo. Allora, simbolico. Simbolico, nessuno. Ecco qua. Aspetta, ecco. Mettilo un po' meglio il chiodo, però. Aspetta, sto appena cominciando. Si comincia a criticare per. No, che così se ne va storto così, capito? Se ne va tutta a destra così, che poi dopo. Allora, sul Golgota non c'erano i pensionati che stavano lì a dire un po' fin qui, un po' più lì, se ne è giunto così, va bene? Crocifiggevano in pace! È faticoso fare le crocifiggi. È faticoso crocifiggere, infatti crocifigo io. Perché? Perché lui è un chitarrista, perde un colpo, ci spacca il ditino. Come faccio? Io posso recitare anche Monco, dai, aiutami. Magari anche meglio, che ne sai? Dai, vieni qua. Dai, Goran. La corona. Si è incriccato il braccio qui. Ah, Goran, Goran. Beati gli affamati di giustizia. Che saranno giustiziati. Allora, questa è la parte per me più faticosa dello spettacolo. Mi sembra quasi che faccio un lavoro vero qui. È un lavoro sporco. Ma qualcuno dovrà farlo. Infatti, qualcuno deve tirarlo anche su. Tiratelo su, per favore. Mio nonno diceva in triestino, quando gli chiedevano credi, diceva credo, mi credono. Credo a tre ciodi di ferro piantati sulla carne e poi sul legno. Credo a un basin, un piccolo bacio. Un basin che però annuncia una condanna. Mi credo a 30 denari per una nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera libertà. Mi credo che se tornassi oggi Gesù Cristo in Italia, ammesso che il Ministero degli Interni lo faccia passare, e sarei un piccio, un putè, un bambino. Un bambino gettato a mare con la madre dalla barca al largo delle coste della Puglia, della Calabria, della Sicilia. Mi credo che il 25 dicembre sia solo il compleanno più celebre. Quanti altri 25 dicembre più anonimi dopo, dove c'è un nascere senza sopravvivere? E penso che proprio da questi 25 dicembre nessuno di noi ha più il certificato di residenza, no, no. Siamo tutti in attesa di un visto, tutti, grassi, pasciuti d'Occidente, atei, cattolici, musulmani, ebrei, buddisti, induisti, copti, tutti in fila alla biglietteria del cinema Italia. Cristo era un clandestino, nato dopo un infanticidio, eppure era un re. Cristo non aveva un soldo, né una terra, neanche un tetto. Quasi forse come te. Figlio di donna, vergine, e incinta, e di un annuncio, e di un falegname di cui non era figlio, eppure era un re. Figlio di Dio, si sa che il tuo verbo ha dato la nostra storia al verbo che noi tutti ripetiamo per alzare un sovrano, per dar via ad una guerra, per sciacquarci bene la bocca quando ci va. Lui non credeva all'ordinario, era il miracolo il suo onorario, eppure era un re. Cristo di Dio, quante ferite, e noi le abbiamo messe in mostra, per vendere croci a stampa al mondo, beh, del dolore si fa mercato quando ci sta. E quando gli zingari arrivano dal mare e la vedetta si mette a sparare, ci sarà sempre un bambino che alle onde chiederà: ma quanti anni ha questo mondo? E se giocando si perderà. E quando gli zingari arrivano dal mare, prima che paghino o brucino, bruciano per poter rimanere. Ci sarà sempre un bambino che a uno sbirro chiederà: ma quanti assassini ha questo paese? E se giocando l'incontrerà.